Mon amour, le navi di ogni porto, le acque del deserto sono qui. Mon amour, le strade di ogni mondo, i piaceri di ogni sesso sono qui. La notte scende e scende, ma mai ci sorprende. La neve fiocca fiocca, ma a noi che ce ne importa? Insieme siamo amore, una calda minestra, innamorati come due gatti a fare le fusa sotto la finestra, mon amour. La terra sta tremando, il vento sta soffiando e noi qui, come due idioti deficienti, eterni adolescenti, ridiamo senso al senso e brividi. L'ombra ci dà luce, la luce ci dà cuore, uno più uno amore, fanno sempre mille storie. Spengi la lampada, spengi il termosifone, che non ho più freddo da un pezzo, non ho più freddo amore. Oggi è un giorno per noi, mille fiori, mille baci today. It's beautiful, beautiful, beautiful, beautiful day. Oggi è un giorno per noi, mille fiori, mille baci today. It's beautiful, beautiful, beautiful, beautiful day. Mon amour, le rondini del cielo, quelli che si amano davvero, siamo noi. Un destino che ci ha detto, siete fatti l'uno per l'altro, due anime, un tetto, siamo noi. L'ombra ci dà luce, la luce ci dà cuore, uno più uno amore, fanno sempre mille storie. Spengi la lampada, spengi il termosifone, che non ho più freddo da un pezzo, non ho più freddo amore. Oggi è un giorno per noi, mille fiori, mille baci today. Beautiful day. Oggi è un giorno per noi, mille fiori, mille baci today. It's beautiful, beautiful, beautiful, beautiful day. Se oggi è un giorno per noi, mille fiori, mille baci today.